Radio 24 Reportage. Il futuro del pianeta. Accordi e conflitti attorno al clima. Di Cristina Carpinelli. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. 1 giugno 2017. Il presidente Trump annunciava al mondo che gli Stati Uniti sarebbero usciti dagli accordi di Parigi. In meno di 5 mesi quelle parole, che di fatto negavano l'emergenza collegata ai cambiamenti climatici e difendevano un'idea vecchia di economia energetica, sono state superate dai fatti. Negli stessi Stati Uniti singoli governatori hanno applicato alla virgola gli accordi di Parigi e ora partecipano alle conferenze internazionali sul clima, come è accaduto giorni fa a Bonn. Now some people say that they're going to turn off the satellites that are monitoring. Non abbiamo il lusso di poter aspettare centinaia di anni per cambiare la nostra società. Non possiamo attendere i nostri leader nazionali, ha detto il governatore della California, il democratico Jerry Brown, partecipando alla 23ª conferenza dell'ONU sui cambiamenti climatici. La California non sta aspettando Trump perché i cambiamenti climatici stanno avendo effetti ovunque, ha insistito Brown fra gli applausi dei leader locali che al termine del loro summit si sono impegnati a intraprendere nuove e rapide iniziative per far rispettare gli accordi di Parigi a tutti i livelli di governo. A Brown ha fatto eco in chiusura del summit l'ex governatore repubblicano Arnold Schwarzenegger. Il fatto che Trump si sia ritirato, ha detto, dall'accordo di Parigi non significa niente, grazie ai governi subnazionali che continueranno a lavorare come hanno sempre fatto. E dunque un lavoro di negoziati e relazioni che continua ogni giorno, come ci conferma Serena Giacomin, presidente di Italian Climate Network. La conferenza delle parti sono dei punti di incontro e così è stata anche la COP23 che si è tenuta a Bonn, dove si è proseguito un lavoro di implementazione dell'accordo di Parigi e sono state prese anche delle decisioni importanti che si rifletteranno nella COP24 che si terrà il prossimo anno in Polonia. Si parlerà dell'aspetto finanziario e sentirete parlare soprattutto dei cosiddetti NDC, che sono i contributi determinati a livello nazionale. Questi contributi sono determinati da ciascuna nazione e dicono in pratica quanto ciascuna nazione si vuole impegnare per mantenere il riscaldamento globale, quindi le temperature globali, al di sotto dei 2 gradi o ancora meglio al di sotto dell'1,5 gradi centigradi. Ovviamente ci sono molte difficoltà, perché pensate che i paesi firmatari in questo momento sono 169 e quindi 169 paesi che tra loro sono completamente differenti, hanno delle necessità così come strategie energetiche differenti, si devono mettere d'accordo. La grande difficoltà è anche capire come i paesi sviluppati debbano assolutamente aiutare i paesi in via di sviluppo in questo percorso, anche dal punto di vista ovviamente finanziario. I piccoli, comprese città e regioni, vogliono dunque essere in prima linea sulle politiche climatiche. Per questo a Bonn è stata siglata un'alleanza trasversale tra paesi, città e regioni per arrivare alla decarbonizzazione. Maria Grazia Midulla è responsabile energia e clima per il WWF. L'alleanza per il phase out del carbone, per l'uscita dal carbone, è un'alleanza che non vedrà semplicemente un comunicato stampa o una conferenza stampa. Intende nei paesi che hanno sottoscritto produrre fatti concreti. L'Italia dovrebbe essere uno di questi paesi con la strategia energetica nazionale, che ovviamente auspicando che seguano le politiche necessarie. E poi l'alleanza mira a coinvolgere sempre più stati, perché qui appunto le chiacchiere stanno a zero. Se non cominciamo a fare delle azioni concrete per tenere i combustibili fossili sottoterra, gli scienziati proprio qui a Bonn ci hanno detto che per esempio quest'anno le emissioni provenienti dai settori industriali e dalla combustione dei combustibili fossili sono destinate ad aumentare dopo che per 3 anni erano in fase di stallo, quindi non ci sono buone notizie sul fronte delle emissioni. Speriamo che ci siano buone premesse per buone notizie in futuro. Così il ministro dell'Ambiente Galletti giorni fa interveniva descrivendo gli obiettivi della strategia energetica nazionale. Le macchine previste al 2030 elettriche sono quasi 5 milioni, quindi è chiaro che le policy che dovremmo mettere in campo di sostegno a quella filiera e più in generale a tutta la filiera DAFI, cioè tutte quelle quei carburanti che ci permettono di risparmiare CO2 e di risparmiare e di andare verso l'elettrificazione, dovremmo trovarli e metterli proprio nella strategia clima ed energia. Ma possono i piccoli trascinare i giganti? La scorsa estate il governatore della California ha siglato un accordo con la Cina sulle tecnologie pulite, puntando in particolare allo sviluppo di sistemi informatici utili a monitorare le emissioni di inquinanti. Dunque, la Cina, che resta tuttora uno tra i più grandi inquinatori al mondo, si sta muovendo in direzione opposta a quanto ha deciso Trump. Anche perché il tema dell'inquinamento è molto sentito. In Cina e in India, infatti, ogni anno si registra metà dei morti per smog del mondo, ovvero 2,2 milioni di persone, egualmente distribuite tra i due paesi. La firma dell'accordo di Parigi ha innescato una decisa accelerazione delle politiche climatiche in Cina, le cui emissioni al 2030 dovrebbero essere almeno di 1,5 miliardi di tonnellate di CO2 inferiori rispetto agli obiettivi presentati. Paradossalmente sembra quasi più facile la decarbonizzazione per un gigante come la Cina che non per la Polonia, che sarà invece il paese ospitante della prossima conferenza sul clima. Ancora Serena Giacomin. Ma sicuramente ha stupito la Cina in questi ultimi anni perché ha mostrato un grande interesse nei confronti della lotta al cambiamento climatico e anche la strategia energetica nazionale si sta fortemente orientando verso le energie rinnovabili. In pratica possiamo quasi dire che India e Cina, che sono due paesi fortemente emettitori di gas climalteranti, stanno un po' prendendo la parte degli Stati Uniti. La Cina sicuramente sta prendendo una forte posizione. C'è da dire che è rappresentante dei paesi in via di sviluppo, nonostante l'enorme evoluzione che ha che ha manifestato anche a livello tecnologico negli ultimi anni, certamente il suo ruolo e le decisioni che prenderà saranno determinanti per la riuscita di questo accordo. Noi spesso parliamo di Cina, di India, dimenticandoci che a casa nostra proprio ci sono dei paesi che ancora resistono, no? Cioè che si oppongono alla decarbonizzazione, che sono entrati da poco all'interno dell'Europa. Sarà difficile, insomma, portare a casa dei successi su questo fronte in tempi rapidi? Beh, sicuramente il percorso, diciamo, che stanno seguendo le conferenze delle parti non è un percorso semplice. Nessuno dice questo e nessuno ha detto questo, ed è un percorso, come dicevate voi, molto lungo. È un percorso che prevede anche un aumento di consapevolezza e di coscienza, quindi è un lavoro lungo, è un lavoro che riguarda soprattutto tutte le varie strategie energetiche nazionali. È una strategia energetica nazionale, non si cambia da un giorno all'altro, quindi sicuramente ci saranno degli ostacoli da superare. C'è da dire che il fatto che tutti questi stati abbiano aderito e abbiano capito che la problematica del cambiamento climatico va poi a influenzare, ha un costo anche economico e sociale, quindi al di là del fatto che ovviamente tutti gli amanti, lo dico in parole molto semplici, tutti gli amanti del pianeta Terra vogliono proseguire con passo spedito nella lotta al cambiamento climatico, perché la comunità scientifica ce lo sta dicendo, anzi ce lo sta urlando, al di là di quello, intraprendere un percorso di decarbonizzazione, soprattutto di sviluppo delle energie rinnovabili, è qualcosa che fa bene all'economia, che può far molto bene all'economia e anche alla società. Quindi gli stati si stanno rendendo conto di questo. Si vedrà. Nel frattempo, per l'Europa, sul fronte dell'inquinamento atmosferico, gli esperti segnalano un miglioramento complessivo e, a conti fatti, è un buon punto di partenza. We'll be right back.